Radio, escucha. Radio, siente. ¿Cuándo escuchas la radio? ¿Dónde estás? El poder depende de la clase de saber que se tenga. Senti, oh ascoltatore, questo rumore di città invisibile. Questo rumore di traffico invisibile, di strade invisibili, di pedoni invisibili. Radio, escucha, radio, oyente, hay ciudades que son inescuchables. Pepe, radio difusión, radio frecuencia. Navarra, vecchia nave avara, ara e tora storta, ava sporta. Navarra, barra, dolci nove, vari veri nomi, uova, ugonotte, che scendo. Pamplona, luna, aliena, pantaleone, spieve, struelli, evi, zampe, terme, stampe, te cursadore, sampi, pedigri, in terra, temoleta, l'amuleto di ferro, e insieme, insieme. Santander, epidermide, chandrei, tanger, tan, stan, chandaglia, aires, bontà, marre, ramado, frio, i sus baschi, retti, eus, montati. Aragon, I gonna do shortly jeans, Jane Doe, doccia lurida, Aragon, le gala, ghirre de agua, pantana, ragusea, nausea, fadada, onze rovere. Barcelona, al Barcelona, baile de ramblas, rubia, rabbia, i roba, roba, i gofe, gaudi, io miro, miro, i ai, Picasso, anche il gelato. Barcelona, Barcolón, Barpaseo, Barpason, Rato, Barcolla, Barcede, Mercedes, Barcolis, poesia, poesia. Radioso, radioscopia! Quando escuchas la radio? Te gusta hacer amor? Ma insomma, scusa, quando ascolti la radio? Ti piace far l'amore? Nada en este mundo es un regalo. Senti, ascoltatore, questi orgasmi, queste migliaia di orgasmi silenziosi tipici della città invisibile. Questi rumori di orgasmi di donne e di uomini che si accoppiano, de mujeres, de hombres, de chicas, de chicos, todos invisibles. Radio, escucha, radio, oyente, hay ciudades que son inescuchables. Figueras, Ignífego, Herreras, Unamuno, Est, o Vestale, TV, Dalí, No Salvador, e dai Linguana, e Guaya, e Guerra, e Gran Galade, Fiodor, Medaglie. Burgos, Urge, Torge, Noel, Manrique, WWF, Woman, Nunca, Occido, Caso, O Cado, El Cid, Il Quid. L'idioma qui, maschio, macio, l'ammazzo, Torbiador, se giovia, seguo ai baffi, giusti egoisti, altera al casa, la casa, snerva, ambrogio, mogio, mogio, mil fervante, Spanti, Esteban, Itagudeza, Lucana. Comiglia, scamiglia, comida, cammina, salida, cam cam, glielo donna, frio, razon, decora, meloton, tiempo, campamento, comiglia, sira, impensata, Madrid, Dris, Ladra, Latra, Velter, Ciudad, Pater, Deon, Hambre, Lombos, Candele, Bosco, Attentado, Apar, Prado, Verde, Piedra, Rubada, Madrid, Rubens, Gracias, Tres, Ben, Tentaciones. Madrid, Rida, doble il paseo in goia in demasiado maciado luciado picadorado se segna lui Madrid luz re in re alto re adorra todo toro a toro todo radio faro radiofonia. Quando escuchas la radio, ¿cómo es algo? En todo hay siempre más de lo que uno cree. Senti, ascoltatore, questi rumori di piatti e forchette di cibo deglutito. Questi rumori di pollo, pizza, lasagne, salame, mortadella, tortellini tritati e deglutiti. Radio escucha, radio oyente, hay ciudades que son inexpresivas y escucha. Toledo tu ledo ni doni al greco leda il cigno le da lede da salire in cattedrale a casale mode di parole di vaniglia detta la moda di e l'Escorial esco dal coro, scorie scozzesi e lavora in muccia ora trista venito spartito fonofo a volte e l'Escorial è tuo alto a letto e sveglia ti para boscare poi Arajuez, juego sin suez, sucia naranja que ti venga cangreca, música completa, Arajuez, vega, oreja, su noche, 20 años en ventana, para la gente más profunda. Veniscola, vulviscola, fiera mosca, maius, anotte, minus, colga, l'alga, algida, renata, azarda, azar, lutar, arroz, tomate, veniscola, pomata, Huesca, o grandine esca, heart, eroina, Huesca, dinero, cabrero, contrera, cabronazo, beh, e coño del cazzo, adesso pesca. Levati niente manitas. Altamira mirabello ammiro e rimiro a tratto sfera attimo atomo di Altamira buio bussola predosa flambeau bison e la cabala amen cavaglio ale amen. Radioterapia, radiotelegrafia. Quando escuchas la radio cantas. El principio está solo en tu pensamiento. Senti, ascoltatore, chi canticchia, chi fischietta, chi gorgheggia, senti chi riempie di canto melodioso queste città invisibili. Non vedi, ascoltatore, le ugole, le gole, le bocche, le lingue rosse, le dentiere, i denti di chi canta? Radio, escucha, radio, oyente, hay ciudades que son... invivibles. Tralallero, tralallà, tralallà, tralallà, tralallero, tralallà, tralallà, tralallà.